Bentornati su Radio Pazza, questa è Music Escapes, la numero 11, io sono sempre Prisma e la mia nuova sigla l'avete riconosciuta, James Brown di Funk Let's Go Bounce, annuncia l'inizio di un nuovo podcast. Dirò poche parole in apertura e vi lascio al primo brano che ho inserito in scaletta. Un brano che ci consente di fare una riflessione sulla storia recente del nostro paese e di gettare uno sguardo anche sulle prospettive future. Buon ascolto. Terribile. E abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Abbiamo trovato delle risorse di metano in provincia di Enna. Il pozzo è stato messo in prova ieri da 150.000 metri cubi al giorno, un altro ne dà 50.000. Bisogna che la nostra gente lavori in Italia, lavori nel sud. Chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi, hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste cose. Uno delle sette sorelle? Una delle sette sorelle, perfettamente. Per incontrarmi dovevi stabilire dei rapporti di collaborazione. Tutta la collaborazione di questo illustre capo riguardava l'Italia. Adesso più i prezzi. Guadagniamo tutti di più, è proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato, devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia dico sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo appena ascoltato una traccia interessantissima dei Black Era, che hanno realizzato un efficacissimo connubio tra la musica elettronica e dei samples di discorsi di personaggi della nostra storia recente. In particolare in questa traccia l'avrete senz'altro riconosciuto, a parlare era Enrico Mattei, un personaggio della nostra storia recente che ha tentato in qualche modo di cambiare i meccanismi economici ed energetici che regolavano il mondo, andandosi a scontrare con le sette sorelle, con gli Stati Uniti, mettendosi diciamo in qualche modo in una posizione molto scomoda per poter fare in modo che l'Italia diventasse autonoma dal punto di vista energetico e quindi anche economico, perché le due cose vanno a braccetto. Se vi ricordate come è andata a finire questa storia, beh, vengono i brividi, perché è solo uno dei tanti aspetti inquietanti che in qualche modo costellano la storia del nostro paese, che permane piuttosto opaco per quanto riguarda la conoscenza dei meccanismi che vengono gestiti in una stanza dei bottoni a cui non abbiamo granché accesso. E in questi tempi, diciamo, particolarmente critici per il pianeta, in cui eventi naturali come penso al terremoto in Giappone e non solo, anche in altre zone del mondo, alla conseguente rottura del reattore nucleare di Fukushima, che riporta alla mente il terrore scatenato dal disastro a Chernobyl, in cui c'è una guerra, di poche settimane fa l'attacco alla Libia di Gheddafi con insomma l'intervento delle forze occidentali, viene da pensare appunto se non sia il caso di finalmente accantonare determinati meccanismi produttivi di approvvigionamento di energia, dal momento che le conseguenze che questo porterà nei decenni, per non dire secoli a venire, avrà un impatto veramente devastante. Pensiamo solo alle scorie radioattive che vengono smaltite non sempre con criterio, non solo nel nostro paese, che da tempo aveva abbandonato il nucleare, ma ricerche hanno portato alla luce problemi nello smaltimento in Francia e in Germania, con livelli di radioattività altissimi in terreni frequentati da persone. Insomma, fa sempre bene in questo caso recuperare un po' di storia recente che ci fa un po' riflettere sulle prospettive future. E per questo un plauso speciale va ai Black Era, che nel loro piccolo hanno in qualche modo riportato in auge i discorsi di personaggi scomodi. Infatti se andrete a scaricare il loro lavoro tramite il link alla loro net label A Quiet Bump, che ho inserito nella playlist di questo podcast, vedrete che hanno utilizzato le campionature anche delle parole di Pierpaolo Pasolini e di Giovanni Falcone. Bene, dopo questo inizio diciamo parecchio riflessivo, ma mi è venuto spontaneo perché nel mio piccolo insomma sono un'osservatrice nonché piccola protagonista di eventi molto più grandi di me, e quindi non potevo non parlare anch'io di questi, che sono temi che ci riguardano tutti. Mi chiedo appunto se dove siano rimaste le scorte di raziocinio a coloro che in qualche modo gestiscono nella stanza dei bottoni tutti quei meccanismi economici, culturali che investono l'intero pianeta. E allora ci andiamo ad ascoltare con un volo pindarico questa Bottles of Reason dei Dead Poets, e dopo vi andrò a spiegare qualcosa su questo brano. Sip sipping on a king of beers. I'ma tell him, listen here, poet's here. Only thing you getting is a souvenir. I built the camels and Jack Daniels. Rap lyrics like rap panels. Don't make me run up and have yeah, to smack we can mantles. Make them lose. Feeling the blues, feeling on your ceiling. I'm cold chilling on your billing. Pull up Bob Dylan and I'm gone. You couldn't fathom the damage that we constructed. Suck a dick with all them rumors and narrow-minded assumptions. You should watch him out, box him out, dribbling the paint. When the poets get the sipping, you should reconsider fate. The poets are still rocking, you faggots must have forgot me. We're still rolling up with a bottle of something rotten. Tell them it's not an option, nothing's gonna stop them. The bottom shelf spitters with a bottle in they stockings. The Zinfandel and Jameson got me ready to lay a sun. I cherish these bottles like they motherfucking uranium. With a glass full of high tab, show them how we do this. Yo, I write it, then I flip it when I'm sipping on the liquid fire water. Get your daughter, booze hounds with another order. I'm facing leaders, the only time I feel normal. Trying to buy a bottle with nothing more than a fist of cards. And yo, the, what I'm sipping on that number seven tripping. And get to mixing, now the room is looking different. And got me pissed, I'm with the dumb bitch. Sip a little, stumble over, spilling all my rum and soda. I'm ready for whatever, my liver's starting to hurt me. This shit got me feeling worthy, the liquor never deserts me. Rehab's for quitting, so fuck all that they've been thinking. Tab and Renegade, the poets are still drinking that. Queste erano le bottiglie di ragione, le Bottles of Reason dei Dead Poets, un brano hip hop che ho tratto da una compilation a cura di Blocksonic Net Label, che si occupa di andare a cercare in rete, di raccogliere in compilation il meglio della musica Creative Commons e delle Net Labels che ci sono sul web. In particolare la compilation che ho scelto è NetBlock volume 31, chiamata Goodbye Hello, che mi ha attratto per questo titolo che richiama a specchio il nome di una nota canzone dei Beatles, a me molto cara. Prima non l'avevo annunciato, il titolo del brano dei Black Era che abbiamo ascoltato in apertura era Martyr Hands, perché c'è una serie di canzoni intitolate Martyr e questa su Mattei era proprio specificato Hands. Forse proprio a segnalare appunto che si è sporcato le mani, una mia interpretazione che non so se poi possa essere corretta. E dopo i Dead Poets ci andiamo ad ascoltare L'œil qui ne sèche plus di Mick de Desaxé e Uwire dell'etichetta Don't Trust the Ruin, che è questo brano inserito nella compilation di Blocksonic. Qui déborde sur ses joues un matin de plus. Catastrophe et tracas du quotidien. Tout se mélange comme dans une soupe au malheur. Tout se mélange à la main au pistolet, une vie de moins, une ligne de plus. Sur les pages des quotidiens, la terre tremble, mais je ne la sens pas. L'écran me jette un sort. J'y vois toute la journée des corps pour des corps. Les hommes assis sont des ondes que je distingue mal. Je me perds dans le rouge et le noir comme les cris Stendhal. Mon œil fatigué bloque sur le siège du métro. Des pieds passent, une main tendue, 10 centimes d'euros. Je suis celui qui en a trop vu, qui pleure sans s'en rendre compte. Moi, l'œil, l'œil qui ne s'échappe plus. Salé dans la bouche. À l'heure des immondices, mon œil la cour. Un goût salé dans la bouche. Quel est mon plus gros vice? De voir avec amour. J'espère du fond de la rétine que la route tourne et que la routine des images absurdes ne soit pas sans retour. On dit que le bonheur est simple mais ce monde est compliqué. Fermer l'œil c'est abdiquer, être comblé par un dessin c'est dur. Alors je cherche toujours le bijou d'air pur, scrute le futur en espérant que l'or y soit en nature. Maudit soit la nuit, elle qui noircit ma vision. Maudit soit le jour qui éclaircit peu l'horizon. Je me suis lassé jusqu'à ce matin ou pas dans mon assiette. Je m'ouvris sur un soleil d'or et d'acier. Les couleurs vives me poussèrent vite à la fenêtre. Et ce que je vis, ma tristesse allait faire disparaître. Je ne puis la quitter des yeux, cette divinité au corps voilé qui allait inspirer mes rêves de nuit d'été. Depuis j'espère respirer sa vie, elle qui a bu mes larmes, elle qui a pris mes armes, désembué ma vitre. Un goût salé dans la bouche, à l'heure des immondices, mon œil me fait la cour. Un goût salé dans la bouche, quel est mon plus gros vice, de voir avec amour. Avete ascoltato questo interessantissimo brano rap di Mick Le Désaxé, un ragazzo di Lione che ha pubblicato un album intitolato L'Envol des Éléphants, che già mi piace perché immaginarsi il volo degli elefanti riporta subito alla mente, insomma, la Disney, il sogno, la possibilità di andare oltre ciò che è il comune sentire, pensare e etichettare. Davvero davvero bello questo esplorare in rete senza confini, si può spaziare veramente di genere in genere, di paese in paese, di lingua in lingua. Mi piace molto sia viaggiare che le lingue straniere, per cui è un modo per tenermi in allenamento ogni tanto quando il tempo e gli impegni me lo consentono. Anzi, inviterei chi conosce meglio di me il francese, se ha voglia, a magari tradurmi un po' più nel dettaglio il brano, perché per quello che è la mia conoscenza scolastica, insomma, ho colto qua e là dei riferimenti, non so, alla terra che trema, alla vita che, insomma, in qualche modo ci inchioda sul sedile di una metropolitana con quest'occhio che non si secca mai, che mi fa pensare quindi a una commozione umana, emotiva, che va al di là degli impegni, degli obblighi in cui ci vorrebbero costringere a star stretti. Penso infatti a quante volte, prendendo la metropolitana, soffrivo non solo fisicamente ma anche psicologicamente, ed era un tutt'uno, in questi ritmi forsennati, forzati, spazi veramente esigui, nello schiacciamento letterale che si prova sugli scompartimenti strapieni, stracolmi, in questo flusso incessante di produci, consuma, crepa, che poi alla fine, se una volta ci consentiva quantomeno di poter con quello che si guadagnava lavorando costruire fondamenta per una famiglia, oggigiorno, insomma, con i contratti precari, gli stipendi sotto, cioè, diciamo, sotto il costo della vita e anche la innumerevole disoccupazione, insomma, perde tutto ancora di più di senso. Già se ne aveva comunque poco per quelli che amano in qualche modo spaziare con la mente, non ridursi solamente a un meccanismo, una pedina. Oggigiorno, insomma, non so se a voi capita, a me capita spesso chiedermi: ma che cazzo sto facendo qui, ora, in questo tempo, con questo paio di occhi, con questo corpo, con questa mente, in questo mondo talmente sterminato che tutto ciò che faccio nel mio piccolo mi sembra così inutile e così uno spreco di tempo certe volte. Poi mi riprendo e ricomincio, insomma, a cazzeggiare, perché purtroppo se si pensasse sempre soltanto in questi termini, insomma, non si farebbe più niente. Invece è bello poi anche soffermarsi davanti a un paesaggio, davanti a due parole scritte di qualcuno che ti emozionano, ascoltando una musica che ti fa andare oltre il tempo presente. Vabbè, queste sono piccole cose che però fanno grande questa vita che abbiamo. Ora, senza dilungarmi troppo, passiamo alla traccia successiva che ho scelto per questa puntata, ed è Fractals di Pinkle. E non so perché i frattali mi fanno ancora una volta pensare appunto a un universo impossibile da irregimentare, per quanto noi tentiamo di fissarlo in categorie prefissate, lui ci sfugge continuamente, il caos e l'entropia in qualche modo prevalgono e prendono il sopravvento, spesso gettandoci nella mischia, quando invece ci attardiamo nei nostri tentennamenti, nel nostro senso di inadeguatezza, e poi ci ritroviamo a distanza di tempo evoluti, senza quasi rendercene conto, se non a posteriori. Buon ascolto. Are gone. e ritroviamo con piacere la A-Records, quella che non riuscivo mai a pronunciare, etichetta indipendente sul web per la musica Creative Commons, che ospita fra le sue release questo artista che si chiama Pinkle, o meglio, l'artista precedentemente conosciuto come Pinkle, perché scopro proprio adesso che ha cambiato nome e quindi adesso si fa chiamare Brin. Mi piace questo trasformismo di nomi, ne so qualcosa. E questo brano in particolare, Fractals, è tratto dal suo album House Plants. Trovate comunque il link sempre sulla playlist di Music Escapes 11 su radiopazza.blogspot.com. Anche questo brano fa parte di quella compilation di cui sopra, della Blocksonic Net Label. Benissimo, adesso a questo punto io direi che possiamo anche andare velocemente alla traccia successiva, che è Flowers, Fiori. Mi piace questa assonanza tra Fractals e Flowers, questa volta del progetto Silence is Full of Birds, il silenzio è pieno di uccelli. Non pensate male, zozzoni, l'ho visto. Anche questo brano è estratto dalla stessa compilation, questa volta però la net label è la Headphonica, che già vi ho presentato in qualche podcast fa. I just wanna sing some little something, something little something, something without words. I just wanna sing some little something, something little something, something without words. Alright, I just wanna sing some little something, something little something, something without words. Alright, I just wanna sing some little something, something little something, something without words. Alright, I just wanna sing some little something, something little something, something without words. Alright, I just wanna sing some little something, something little something, something without words. Mi piace questa traccia, incredibile, mi mette un'allegria addosso che ho dovuto subito esternarlo su Facebook, sto cavolo di Facebook sempre in mezzo. A parte gli scherzi, vi cito in diretta il frutto di questo mio esternare, avendo gioito particolarmente nell'aver trovato delle tracce che facevano proprio un bel mix e capitavano proprio a fagiolo. Ho scritto: e la magia di certi automatismi istintivi che ti portano esattamente dove non credevi ma in fondo volevi andare. Piccole perle di filosofia prêt-à-porter de Noantri, a cui trovo anche chi mi risponde. Fabio Will Schwester Ronci mi ha risposto: GPS uguale Global Position Serendipity. La definizione mi è piaciuta così tanto che l'ho voluta fissare e cristallizzare in questo podcast. Grande Fabio. E a proposito di serendipity, che è quella capacità di trovare cose in modo casuale che si rivelano significative proprio in quel determinato momento, e che si può anche ricondurre alla sincronicità, vi leggo un frammento sempre tratto dallo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che un po' molto meglio di me racchiude tutto l'insieme di pensieri sparsi che poco prima ho fatto su entropia, su caos, frattali e sul bello della vita. Nella nostra condizione organica altamente complessa, noi organismi avanzati reagiamo all'ambiente inventando molte analogie meravigliose. Inventiamo cielo e terra, alberi, pietre e oceani, dei, musica, arti, linguaggio, filosofia, tecnica, civiltà e scienza. Chiamiamo queste analogie realtà e sono la realtà. In nome della verità, con un processo ipnotico abituiamo i nostri bambini a sapere che esse sono la realtà. Chiudiamo in manicomio chiunque non le accetti. Ma ciò che ci induce a inventare queste analogie è la qualità. La qualità è lo stimolo continuo con cui il nostro ambiente ci spinge a creare il mondo in cui viviamo. Tutto il mondo, fino all'ultima molecola. Ora è chiaramente impossibile prendere ciò che ci ha indotto a creare il mondo e includerlo nel mondo da noi creato. Ecco perché la qualità non può essere definita. E se lo facciamo ugualmente, quello che definiamo è qualcosa di meno della qualità stessa. Ricordo questo frammento con più precisione di qualsiasi altro, probabilmente perché è il più importante. Quando lo scrisse, Fedro ebbe un attimo di terrore e fu lì lì per cancellare le parole tutto il mondo fino all'ultima molecola. C'era la follia in quelle parole. Credo che lui l'abbia vista, ma non riusciva a trovare nessun motivo logico per cancellarle, e ormai era troppo tardi per essere vigliacchi. Ignorò l'avvertimento e le lasciò come erano. Posò la matita e sentì che qualcosa cedeva, come se qualcosa dentro di lui fosse stato forzato e spezzato, e dopo fu troppo tardi. Si accorse di essersi allontanato dalla sua posizione originale. Non stava più parlando di una trinità metafisica, ma di un monismo assoluto. La qualità era la fonte, la sostanza di ogni cosa. Una nuova ondata di evocazioni filosofiche gli si presentò alla mente. Hegel, con il suo spirito assoluto, si era espresso allo stesso modo. Anch'esso era indipendente sia dall'oggettività sia dalla soggettività. Comunque Hegel aveva detto che lo spirito assoluto era la fonte di ogni cosa, poi però aveva escluso l'esperienza romantica dal tutto di cui esso era la fonte. L'assoluto hegeliano era completamente classico, completamente razionale, completamente ordinato. La qualità no. Fedro rammentò che Hegel era stato ritenuto il ponte tra la filosofia occidentale e quella orientale. Il Vedanta degli Hindù, la via dei taoisti, persino il Buddha erano stati descritti come monismi assoluti simili alla filosofia hegeliana. In ogni caso, a quell'epoca, Fedro non era sicuro che le unità mistiche e i monismi metafisici fossero intercambiabili, dal momento che le unità mistiche non seguono regole, mentre i monismi metafisici sì. La sua qualità era un'entità metafisica, non mistica, o invece era mistica. Qual era la differenza? Si rispose che la differenza stava nella definizione. Le entità metafisiche sono definite, quelle mistiche no, ed era questo che rendeva mistica la qualità. No, in realtà era l'uno e l'altro. Fino a quel momento l'aveva considerata metafisica in termini puramente filosofici e tuttavia si era sempre rifiutato di definirla, e anche questo la rendeva mistica. L'indefinibilità la liberava dalle regole della metafisica. Allora, d'impulso, si avvicinò a uno scaffale e prese un quadernetto blu, su cui anni prima, non riuscendo a trovarne una copia in vendita da nessuna parte, aveva ricopiato l'antico Tao Te Ching di Lao Tzu. Risaliva a 2400 anni prima. Incominciò a leggere le righe che tante volte aveva letto in passato, ma questa volta le studiò per vedere se avrebbe funzionato una certa sostituzione. Lesse: la qualità che può essere definita non è la qualità assoluta. Era quello che aveva detto lui. I termini che le possono venire attribuiti non sono termini assoluti. È l'origine del cielo e della terra, quando un nome è la madre di tutte le cose. Esattamente. La qualità romantica e le sue manifestazioni, la qualità classica, condividono la medesima natura. Essa è designata con termini diversi, soggetti e oggetti, quando diventa classicamente manifesta. L'insieme di qualità romantica e qualità classica può essere definito il mistico. Procedendo di mistero in mistero, andando sempre più a fondo, si giunge alla porta dei segreti di tutta la vita. La qualità è dappertutto ed è inesauribile, insondabile, come l'antenata di tutte le cose. E tuttavia che resti limpida come acqua, generata da non so chi, essa è l'immagine di ciò che fu prima di Dio. Perenne, perenne resta tra le cose. Accostatevi ad essa e non avrà difficoltà a servirvi. Ciò che si guarda ma non si vede, ciò che si ascolta ma non si ode, ciò che si afferra ma non si tocca, sfugge alle nostre indagini e quindi si fonde e si fa uno. Il suo sorgere non ci dà la luce, né il suo tramonto ci dà le tenebre. Continua, incessante, ineffabile, essa torna al nulla. Ecco perché si chiama forma dell'informe, immagine del nulla. Ecco perché si chiama elusiva. Valle incontro e non ne vedrai il volto. Seguila e non ne vedrai il dorso. Se ti attieni alla qualità di ciò che è vecchio, puoi conoscere gli esordi primordiali, che sono la continuità della qualità. Proprio così. Questo era ciò che lui aveva sempre detto, anche se in modo dimesso e meccanico. In questo libro non c'era niente di vago o di inesatto. Il linguaggio era diverso, così le radici e le origini. Fedro era di un'altra valle e vedeva quello che c'era in questa. Non come una storia raccontata da stranieri, ma come parte della sua valle. Ora capiva tutto. Aveva decifrato il codice. Continuò a leggere. Non una discrepanza. Quello che lui aveva sempre chiamato qualità, qui era il Tao, la grande forza centrale, generatrice di tutte le religioni, dell'Oriente e dell'Occidente, del passato e del presente, di tutto lo scibile, di tutto. Poi l'occhio della sua mente alzò lo sguardo e colse la sua immagine e capì dove lui era e ciò che vedeva e... non so che cosa sia veramente successo. Ma ora il cedimento che aveva avvertito prima, la frattura interna della mente, prese velocità come i massi in cima alla montagna. Prima che potesse fermarlo, il subitaneo cumulo di consapevolezza cominciò a crescere, fino a diventare una valanga incontrollabile, finché non rimase in piedi più niente. Niente di niente. Gli franò tutto sotto i piedi. Infinite contaminazioni in questo brano straordinario di Trenko, un artista giapponese, che ho scelto per farmi da sottofondo piacevole di questa lettura, che forse sarà sembrata complessa, ma in realtà attraverso questi suoni orientaleggianti ci riportava, insomma, in questo mondo complesso che è quello della mente umana, che indaga la ricerca dello scopo della sua presenza qui su questa terra, con queste sembianze e con questa testa pensante. E allora è affascinante come Pirsig ci porti per mano in questo percorso che dalla ragione porta alla follia e viceversa, alla ricerca del perché le cose funzionano in questo modo e hanno questo nome. In particolare mi è piaciuta questa lettura perché fa una panoramica interessante delle possibili connessioni tra il mondo occidentale e il mondo orientale, e tra Dio, la ricerca del senso, la qualità e le forze creatrici che sono alla base di tutto ciò che vediamo e che percepiamo, e che allo stesso tempo potrebbero in qualche modo ingannarci, come in un grande Matrix in cui in realtà esiste solo ciò che la nostra mente vede e percepisce. Ma non mi addentro ulteriormente, non ho le competenze per farlo, mi lascio affascinare da menti che meglio di me sanno affrontare queste tematiche. Il brano di Trenco si intitola simpaticamente Flying Cat and Sitar, gatto volante e sitar, e vi ho riconosciuto sonorità fra le altre dei Beatles e dei Nirvana. Questo brano in particolare fa parte di una compilation jazz creata dalla Clinical Archives Net Label. Se vi capita veramente buttateci un orecchio, anche due, perché merita, merita moltissimo. Troverete una selezione di forme jazz inclassificabili e clinicamente indefinibili, come scritto nella descrizione. Vi propongo adesso un brano dal sapore anni 80, che mescola sonorità post-punk e new wave, grazie al connubio felice tra rock ed elettronica. Sto parlando di This Co, una band cilena, e ho scelto per voi Figure It Out. che viaggio nel tempo, questa Figured Out dei Disco, che in realtà è tratta da un loro lavoro del 2008, senza titolo, infatti la descrizione recita Untitled, ed è sempre licenziato sotto Creative Commons dalla Clinical Archives Net Label. E questa band è riuscita anche ad arrivare ad MTV. Il loro brano, As You Know, è stato tra i più richiesti sull'emittente, probabilmente nel loro paese, perché sappiamo che in ogni paese c'è la divisione di MTV specifica. Questo per dire di come poi alla fine le licenze Creative Commons non precludono una maggior visibilità anche a livello più ampio rispetto alla sola rete. Per quanto riguarda il titolo del brano, Figure It Out, riuscire a capire, non so voi, ma spesso si fatica a capire cosa stiamo facendo, qual è il nostro scopo in questa vita. Allora mi tornano alla mente le parole di Nick Hornby in Febbre a 90 gradi, il suo libro dedicato al suo amore per il calcio. Poco dopo che avevo smesso di insegnare e avevo iniziato a cercare di scrivere, lessi un libro di Walter Tevis intitolato Lo Spaccone. Mi prendeva tantissimo Fast Eddie, il personaggio che nel film era interpretato da Paul Newman, proprio quanto mi aveva preso l'idea di essere il Cannonball Kid quando Charlie Nicholas era arrivato dal Celtic. E dato che il libro sembrava trattare di tutte le cose difficili che si vogliono fare nella vita, scrivere, fare il calciatore, qualsiasi cosa, gli dedicai ancora più attenzione. A un certo punto, oddio, oddio, oddio, scrissi queste parole su un pezzo di carta e le appesi sopra la mia scrivania. Vedi ragazzo, ti dirò dove sta il segreto. Bisogna dedicarsi alla vita che ci si è scelti. E tu te la sei scelta. Gran parte della gente non fa neppure questo. Sei giovane, intelligente e, come ho detto prima, hai talento. Man mano che le lettere di rifiuto si accumulavano, queste parole mi erano di conforto e man mano che cominciavo a preoccuparmi per come le cose che tutti gli altri avevano, ad esempio una carriera, un bell'appartamento e un po' di soldi per il fine settimana, a me sembravano scivolare via di mano, gli amici e i familiari cominciarono a rassicurarmi. Lo sai che sei bravo, mi dicevano, andrà tutto bene. Devi solo avere pazienza. Sapevo di essere bravo e mi ero dedicato alla vita che avevo scelto. I miei amici e gli amici di Fast Eddie non potevano avere tutti torto, quindi mi rilassai e aspettai. Adesso so che sbagliavo, che era stupido fare così, e lo so perché me l'ha detto Gus Caesar. Salto alla conclusione del capitolo di Nick Hornby, che dopo aver ripercorso la carriera del calciatore, scrive questa riflessione che mi sembra molto, molto interessante. Lo sport e la vita, soprattutto quella cosiddetta artistica, non sono propriamente la stessa cosa. Uno dei grandi meriti dello sport è la sua crudele inequivocabilità. Non esiste qualcosa come, per esempio, un centometrista scarso o un centravanti negato che hanno avuto un colpo di fortuna. Nello sport viene scoperto. Come non esiste qualcosa come una punta geniale ma sconosciuta che è lasciata ammuffire in una soffitta, perché il sistema di talent scouting è infallibile. Tutti vengono osservati. Esistono invece una marea di attori, di musicisti o scrittori scarsi che riescono a vivere decorosamente, persone a cui è capitato di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, o di conoscere le persone giuste, o le cui doti sono state fraintese o sopravvalutate. Ciononostante, penso che la storia di Gus Caesar abbia qualcosa da insegnare. Contiene una tremenda lezione per qualunque aspirante che consideri significativo il suo incrollabile senso del destino. Di nuovo, questo senso del destino non deve essere confuso con l'arroganza. Gus Caesar non era un calciatore arrogante. Gus deve aver saputo di essere bravo, come qualsiasi gruppo pop che abbia suonato al Marquee sa di essere destinato al Madison Square Garden e ad apparire sulla copertina del New Musical Express, e come qualsiasi scrittore che abbia spedito un manoscritto alla Faber & Faber sa che gli mancano 2 anni al Booker Prize. Affidi la tua vita a questo sentimento, alla forza e alla determinazione che ne derivano, ti sembrano scorrere nelle vene come eroina e non vuol dire assolutamente niente. Beh, una conclusione che potrebbe sembrare pessimistica, ma che in realtà ci riporta poi con i piedi sulla terra, nel senso, sì, è vero il fuoco sacro, è vero metterci tutta la forza che si possiede, ma non sempre le cose vanno come avremmo sperato. Questo non vuol dire che bisogna appendere la chitarra o la penna o qualsiasi altra cosa al chiodo, significa semplicemente, insomma, non trincerarsi dietro un sogno, se poi non sono solo le nostre volontà a far sì che questo trovi una sua realizzazione. Ci sono diversi fattori contingenti di cui bisogna tenere sempre conto, almeno questo è quello che personalmente ho colto nelle parole di Nicole, che poi in realtà ce l'ha fatta, e quindi questo dimostra che anche lui, che ha ricevuto tantissimi rifiuti all'inizio della sua carriera di scrittore, poi alla fine non ha mollato e continua, insomma, a riempire la nostra testa con le sue argute pennellate, in cui la sua prosa, insomma, ci restituisce l'umanità che così sapientemente riesce a cogliere intorno a sé. Andiamo adesso a gustarci il brano The Very Proof di Humpty Dumpty, che è un ragazzo messinese che prolificamente riversa in rete il frutto della sua creatività. Se cercate su YouTube troverete non solo le sue creazioni, fra cui anche il suo ultimo lavoro in italiano, Noia Rivoluzione, anche diverse cover e lavori precedenti in lingua inglese. Taste fruit with me in the shade of trees. Walk across the cave, find the secret land on the grass. Everything is what I am. Brano delizioso, questa The Very Proof, che ci accompagna gentilmente, delicatamente verso il finale di questo podcast, è tratto dal suo album in free download su Bandcamp, intitolato A Mile From Any Neighbor, un miglio da ogni vicino. Forse, diciamo, a significare la distanza in che questi tempi sempre più individualisti ci portano a dover percorrere, se vogliamo poi ricongiungerci con quello che è l'altro da sé. spesso invece questo non accade, soprattutto in prima persona posso testimoniare che il famigerato computer molto spesso insomma diventa uno dei canali di contatto più utilizzati a discapito poi della face to face, di quel faccia a faccia che invece prima era inevitabile, insomma se volevi vedere qualcuno prima addirittura chi non aveva il telefono negli anni 80 dovevi andare a citofonare a casa. Adesso diciamo si sta progressivamente perdendo l'uso, almeno nel mio caso, degli altri media, quindi per cominciare dal telefonino, dal telefono di casa, per poi addirittura l'email o comunque il blog, che stanno perdendo sempre più terreno rispetto al famigerato faccialibro, che in qualche modo rende la comunicazione un po' una specie di fast food dove chiunque può esternare le proprie idiosincrasie, i propri sfoghi, le proprie gioie, i propri contenuti preferiti in un click, e ritrovare anche quelle degli altri in un unico grande mega contenitore un po' inquietante, che però è così spesso anche divertente. Per tornare a noi, Prisma, ovvero me medesima sottoscritta, vi saluta e vi lascia ad un ultimo pezzo che ho trovato sempre davvero accattivante, in questo caso nella forma di un remix. Infatti il brano è Run di Entertainment for Brain Dead per la A Records, però nella compilation Block Sonic che ho citato prima è pubblicato nella versione del remix di Das Kraftfutter Mischwerk, uno scioglilingua che mi ha accartocciato letteralmente le corde vocali. Ce l'ho fatta, ve l'ho pronunciato, spero non troppo male, ed è un brano, ascoltatelo, va, godetevelo senza troppe chiacchiere. Quindi Music Escapes numero 11 per Radio Pazza è terminata. Lasciate commenti, insulti, quello che volete su radiopazza.blogspot.com. Se volete scrivere a me, che sono Prisma, potete trovarmi su Facebook cercandomi come Prisma Radio Pazza, oppure scrivermi a djprisma.radiopazza@gmail.com. E alla prossima puntata. Grazie per il paziente ascolto. Stand such kindness, I better bring this to an end.